E come mai me lo ne fai? Dici ne sai, più ne fumi meno ne hai. Non è vero che vai, appricciati la tua lights come i liceali. E poi fai il gaggio perché cerchi me davanti a due cristiani. E che sei il figo lo so, dici a me non è flow. Hey bro, dammene un po' che non te lo ridò. Era un light per tu e sotto altri 30. E come mai tu non c'eri più? Sei fuggito in fretta from Caralis. Qui QG is a army. Io faccio CD e tu non provare a fermarmi. Sono così, tre errori di sintassi. Sputo sopra i tuoi pezzi, è inutile che ti incazzi. Bubba buona la prima, oggi è suonata prima. È una gara fatta in rima, QG falla la fila. Io ti ho dato la benzina ed ora brucia. Sei lo stronzo che si inchina e me la sbuccia. Hey, apriti la bocca e poi se per caso c'è un problema me la succhi. E non mi tocca, mi infami con gli amici tuoi. E se vuoi vengo stasera me la succhi. Do you like my gringo, my banana, my dog? Do you like my dick, my fish, my big cock? Fella come Jay-Z con il rap and roll. Faccia da magazine, top secret come James Bond. Ti finge ciò che non sei, speri che non lo sappia. Io fuggi dal mare, spengo joints sulla sabbia. Un vince che non morde, al massimo mi abbaia. E la sfiga ti abbraccia, e tu sei bravo io no. Tu sei bello io no, però col culo sulla strada duri un attimo e boh. Elevatela quella maglia con su scritto il mio nome. Che qua la gente non si sbaglia, non gli servono le prove. Potresti anche avere ragione, valgo quanto lo zero. Ma le storie che ho visto tu mi rispondi non c'ero. Tu lo fai per le pivelle, stai dicendo davvero? Io ti compro caramelle perché tu sì che sei serio. Ehi, il PQG, apriti la bocca e poi se per caso c'è un problema me la succhi. Non mi tocca, mi infami con gli amici tuoi. E se vuoi vengo stasera e me la succhi.